Siamo in collegamento con Renzo Carbonera, regista del film Resina, in uscita in sala il 31 maggio. Renzo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, Ce lo presenti tu, ce lo racconti? allora, Resina, a me piace chiamarla la storia di una donna in un mondo di uomini perché narra un po' le vicende di una ragazza che torna al paese delle sue origini, una musicista che è un po' disillusa da quello che le è capitato e riscopre lì però sia le sue radici che il suo amore per una cosa che in realtà è bella, la musica. Lei aveva un po' perso questa bellezza e la riscopre perché viene coinvolta in quello che è il coro maschile locale, che è un po' in disarmo, un coro di tradizione gloriosa, ma che è un po' in disarmo, e lei lo rimette un po' in piedi, ne costituisce un po' la resina, il collante, ecco. Ci sono delle radici nella realtà. Sì, esatto, io questa storia l'ho scritta, chiaramente è una storia che abbiamo scritto io e Alessandro Bandinelli, però è ispirata a una storia vera, che è la storia, la vicenda del coro polifonico di Ruda, su cui io ho girato un documentario e di cui appunto mi aveva colpito il fatto che fosse un coro maschile, con molte voci, 35-40 circa, diretto da una donna. Ecco, il coro polifonico di Ruda, mentre noi abbiamo girato il documentario che riguardava le loro vicende, che in realtà era centrato su questo rapporto, è diventato ufficialmente uno dei migliori cori al mondo, addirittura il migliore per un periodo, nella sua categoria. E ecco, questa cosa mi aveva colpito perché secondo me è stata proprio l'energia che questa donna ha saputo dare agli uomini che si trovava davanti a renderlo così, a rendere tutti così bravi. Un po' ho cercato di portare questo spirito, questa idea anche in Resina, nel film. Penso dal documentario è venuta poi l'ispirazione per fare il film. Qual è stata la spinta e come hai deciso poi di tradurre in finzione tutto questo? Dunque, io ho iniziato a scrivere delle sceneggiature sono bilingue, italiano e tedesco. Dopo questo documentario ho collaborato a delle sceneggiature con delle produzioni in Germania. Dopo Sì. un anno o due, ho deciso di cimentarmi io stesso con una regia di fiction e quindi di scrivere una cosa per me piuttosto che scriverla per gli altri. Ne è venuto fuori, ho rispolverato questo documentario che avevo fatto e ne è venuta fuori questa idea di fare questo film. Contemporaneamente ho trovato Maria Roveran, che poi anche personalmente ho utilizzato, fra virgolette, per implementare la sceneggiatura, e anche la location, Luserna, questo paese molto particolare che è in Trentino. Quali sono gli aspetti su cui hai voluto puntare nella messa in scena rispetto anche al personaggio femminile? Riguardo la messa in scena, una cosa per me subito importante è valorizzare il paesaggio nel film. Sì. Questa idea un po' anche di un luogo sospeso, isolato, quale Luserna è dove abbiamo girato? Perché devi pensare che è un paese di 100-120 anime dove ancora tutt'oggi si parla il cimbro, che è un'antica lingua germanica, e sono gli ultimi a parlarlo. Una volta lo parlava tutto l'arco alpino, sono rimasti solo loro, proprio perché sono rimasti anche molto isolati nei secoli. Quindi ambientarlo lì, cioè il fatto girare lì ha influito molto su come abbiamo strutturato la messa in scena, perché è entrato in noi anche questo essere isolato, questa cosa qui, e anche questo conflitto, e anche questa, come dire, questa mostrare i conflitti interiori dei personaggi, soprattutto di Maria, in maniera delicata e molto, molto intima, molto ermetica a tratti. Visto che hai frequentato anche questo paesino, questo isolamento non è stato anche un handicap proprio per la popolazione? In realtà era la nostra paura quando siamo andati a girare lì, quella di non essere, come dire, accettati, no? Come essere come un organo che non veniva accettato. Invece su questo devo dire che anche tutti i miei collaboratori, tutta la troupe, il cast, siamo stati molto bravi. Prova a immaginarti, noi eravamo una cinquantina, arriviamo in un paese che ha 120 abitanti, abbiamo aumentato di un terzo la popolazione per 2 mesi. L'impatto è evidente, cioè è evidente che sia forte, importante. Però io credo che siamo riusciti a creare un clima di fiducia intorno a noi, e devo anche dire che ci sono state delle lacrime alla fine quando ce ne siamo andati. Forse uno degli elementi che ha contribuito a creare questo clima di fiducia è il fatto che noi abbiamo deciso di girare il film seguendo un protocollo di rispetto dell'ambiente, un protocollo ecologico che si chiama protocollo T-Green, in cui abbiamo poi coinvolto tutta la popolazione locale. Per realizzarlo abbiamo dovuto coinvolgere tutta la popolazione locale. Faccio un esempio: catering a chilometro zero, quindi tutto in loco. Le location tutte raggiunte a piedi, quindi chiaramente abbiamo tutti dormito lì. E tutte queste cose ci hanno molto avvicinato alla popolazione, insomma, agli abitanti. Che comunque a quanto dici hanno un atteggiamento di apertura nonostante Sì, questo. può sorprendere, però decisamente devo dire hanno un atteggiamento di apertura, ci hanno accolto a braccia aperte. Poi, appunto, nel momento in cui hanno visto che non andavamo lì a devastargli la vita, come dire, si sono fidati e abbiamo contraccambiato questa fiducia. Renzo, mi hai detto del tuo lavoro anche di scrittura e di questo documentario, che è stato un unicum, oppure hai dei trascorsi proprio da documentarista? Io ho fatto una decina di documentari e un paio di cortometraggi prima di cimentarmi con Resina, e quindi sì, diciamo che ho un passato da documentarista, penso che si veda anche nel film, nella maniera del mettere in scena, ma anche nella scelta dei luoghi, delle inquadrature, ma anche del fatto di utilizzare molto spesso attori non professionisti locali. Del resto il cimbro lo sanno solo loro, dovevo per forza. Noi abbiamo delle piccole scene in cui si parla in cimbro, dovevo per forza usare i cimbri originali per essere almeno credibile, ecco. Questo passaggio alla finzione, com'è stato? In realtà era una cosa che cercavo già da molto tempo. Come ti dicevo prima, scrivevo già Sì, finzione sì. per altri, quindi era una cosa a cui anelavo. Devo dire che, a differenza di molti colleghi con cui mi sono confrontato, che mi hanno detto questo, cioè che pensano il contrario, secondo me girare fiction rispetto a girare documentario aumenta la libertà per certi versi, aumenta la libertà del poter mettere in scena cioè le cose come si vuole metterle in scena. Sì. Chiaramente dal punto di vista produttivo no, diminuisce la libertà, però dal punto di vista creativo secondo me aumenta. Sì. In chiusura, Renzo, in quante sale sarà? Uscirà da giovedì questa settimana con Partenos, pensiamo in una ventina di sale, un po' in tutta Italia, e speriamo insomma poi anche di incrementare, di attirare un pochino l'attenzione. Benissimo. Allora ricordiamo Resina di Renzo Carbonera in uscita in sala il 31 maggio. Renzo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, grazie e a presto.